Europa 24. L'inflazione della zona euro torna a toccare il 2% a febbraio, in aumento dall'1,8% di gennaio. La stima flash di Eurostat, l'analisi di Alessandro Merli da Francoforte. Con l'inflazione al 2% per la prima volta da 4 anni, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi potrebbe dichiarare vittorie la prossima settimana, quando si riunirà il Consiglio della Banca, mettere fine allo stimolo monetario che negli ultimi 2 anni ha rilanciato non solo l'inflazione ma anche la crescita nell'Eurozona. L'obiettivo della BCE, non dimentichiamolo, è di mantenere i prezzi stabili, il che vuol dire sotto ma vicino al 2%. A giudicare dal dato di oggi, quindi, la BCE sembrerebbe aver addirittura superato il suo obiettivo, e questo ridarà fiato alle critiche dei falchi del Consiglio guidati dalla Germania perché venga avviata una discussione su come ridurre e poi rimuovere lo stimolo monetario. Con ogni probabilità Draghi non ha alcuna intenzione di farlo, primo perché il rialzo dell'inflazione è quasi interamente dovuto all'aumento del prezzo del petrolio, salito di oltre il 9%, mentre non ci sono segnali, almeno per ora, di altre pressioni inflazionistiche. E poi perché nelle previsioni della stessa Bundesbank l'inflazione dovrebbe calare di nuovo verso la fine di quest'anno. Inoltre ci sono sullo sfondo, ma non troppo, rischi politici fuori dall'Eurozona, con l'incertezza sull'amministrazione Trump, il negoziato su Brexit, e dentro l'Eurozona, dove incombono elezioni in Olanda, Francia, Germania e forse in Italia. Ce n'è abbastanza per non precipitarsi in una stretta monetaria di cui pentirsi nel giro di pochi mesi. Monito della Commissione europea agli Stati membri sul ricollocamento dei migranti. Mentre l'avvicinarsi della primavera fa temere nuovi arrivi di migranti sulle coste del Mediterraneo, la Commissione europea ha presentato oggi qui a Bruxelles un nuovo piano d'azione per velocizzare i rimpatri delle persone senza diritto d'asilo. In questo contesto l'esecutivo comunitario è pronto a mettere a disposizione dei Paesi membri fino a 200 milioni di euro per effettuare in modo più efficiente e rapido le espulsioni dal territorio europeo. Nel contempo, la Commissione ha proposto agli Stati l'apertura di veri e propri centri di detenzione dei migranti da espellere, in modo da evitare eventuali fughe. Secondo stime comunitarie, i migranti irregolari sul territorio europeo sono 1 milione. Il nuovo piano d'azione dovrebbe essere visto positivamente dal governo Gentiloni, che sta lavorando su nuovi centri di identificazione ed espulsione. Sempre oggi, Bruxelles ha criticato nuovamente il mancato ricollocamento di rifugiati arrivati in Italia e in Grecia da parte di alcuni paesi dell'Est Europa. Procedure di infrazione sembrano improbabili per ora. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La plenaria del Parlamento europeo ha revocato l'immunità all'eurodeputata Marine Le Pen. La richiesta di revoca era arrivata nel quadro di un procedimento di inchiesta davanti al Tribunale di Nanterre per aver diffuso sul suo profilo Twitter immagini di esecuzioni dell'ISIS. La revoca dell'immunità riguarda solo il caso in questione e non l'inchiesta sui presunti incarichi fittizi dei suoi assistenti al Parlamento europeo. Violenza sulle donne, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per non aver agito efficacemente nel proteggere una donna e suo figlio dalla violenza del marito. La lentezza delle autorità italiane ha creato infatti una situazione di impunità che ha poi portato all'uccisione del ragazzo e al tentato omicidio della moglie. Si tratta della prima condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per un reato riguardante la violenza domestica. Il caso è avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine, il 26 novembre del 2013, quando un uomo, ora in prigione, uccise il figlio 19enne e tentò di ammazzare anche la moglie dopo che quest'ultima lo aveva ripetutamente denunciato, così come alcuni suoi vicini, affinché le autorità intervenissero. La sentenza dei giudici di Strasburgo, che diventerà definitiva fra 3 mesi se le parti non faranno ricorso, ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 2, diritto alla vita, dell'articolo 3, divieto di trattamenti inumani e degradanti, e dell'articolo 14, divieto di discriminazione, della Convenzione europea dei diritti umani. La Corte ha riconosciuto alla donna, sopravvissuta alla violenza del marito, 30.000 euro per i danni morali e 10.000 per le spese legali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.